mai scrivere quanto, come sentirsi empio. Se mi confondo perdo perfino il tempo, dai. Se fossi stato io diverso, perlomeno sono un altro, sarei di certo stato anch'io, forse lobotomizzato. Ma quel che faccio è lamentarmi di un potere che non ho. Non leggo niente, pago e basta, quel che ho avuto mai più avrò. Ferma, aspetta, non fare che muoia da sola per sempre in questa tovaglia. Mi presti un tuo libro, ti offro una rosa, lascia che il soma non ci prenda. Ferma, chi te l'ha detto che è una rosa non vuol dire nulla. È proprio vero che alla fine ci si risvecchia. Dentro fiore la libertà. Farsi fottere, noi siamo soltanto quelli che decidiamo di essere, e per quanto soma ci nietteranno, niente varrà più del nostro sangue che bolle. Rosso come le rose che poi ci cresceranno, all'ombra di un tramonto, dove poi ci aspetta il mare, e allora...